chiedo se anche tu hai questa voglia di mordere, di non mangiare, questa tenerezza. Trattenerla tra i denti, per trattenerla.